Che siano treccine, code centriche, onde gentili, chignon, ciocche e chiome colorate. Il verbo per festeggiare la fine del 2022 è osare. Devi osare, osare fa la differenza. E pensare a qualcosa di nuovo, di bello, di frizzante. È tempo di tornare a splendere. Dunque, quale migliore occasione il Capodanno per regalarsi una conciatura diversa, più rock, che renda le donne, ma anche gli uomini, più audaci. I capelli sono come un abito e possono variare a seconda dei momenti, acconciature solari, sexy, sbarazzine, ma anche misteriose e passionali, messe in piega originali che devono dare carattere alle proprie espressioni e non aver paura di cambiare. Come deve essere questo Capodanno per il 2023? Per me scintillante, soltanto scintillante e che ci porti veramente tanta fortuna, serenità e salute. Quindi bisogna osare. Osare e esagerare. Con i capelli ci si deve divertire, raccoglierli con cerchietti tempestati di strass, illuminarli con fermagli colorati, orecchini, fiocchi, sbizzarrirsi con la fantasia. L'orecchino metterlo in testa, il cerchietto metterlo al collo, cioè riuscire a cambiare gli oggetti purché facciano qualcosa di divertente. E per il look del 2023? Io consiglierei taglio. Tagliamo un po' col passato, un po' con tutto. Sì, tagliare questo il periodo brutto. Osare fa la differenza. My hands, hands, hands above my head.